rosso e nero sono basse frequenze e blu e nero sono alte frequenze. Perché ho letto W, penso che sia Wuffer e poi H sarà il tuo, mi immagino. Quello l'aveva smontato il mio collaboratore e mi aveva segnati male. Quindi non guardare quelle scritte, prenditi un appunto. Allora, rosso e nero, basse frequenze, blu e nero, alte frequenze. Perché lui li avevo controllati dagli altri diffusori ed era così, mi segui. Infatti lui li aveva segnati e gli avevo detto che cosa stava facendo. E no, questi qua sono lui, ho detto, ma lascia stare le cose come sono, quando non sono le tue, per cortesia. E infatti ti ho messo una fase, se tu guardi sono fascettati robe, vanno collegati come sono fascettati, mi segui? Ma sono belli robusti, ho visto ci sono dei componenti di altissimo valore come si chiama, tensione, poi ho visto le cosole, le cosiddette lampadine per scaricare per i Twitter, sono da paura, quelle che ho messo erano infinitesime confronto a quelle tengono un sacco di potenza, quei crossover. Sono crossover da 400 watt RMS, 100 watt per le trombe, 125 watt per le trombe e la restante per i cuori. Montavano un 15 pollici quello, è tromba da 2 pollici. Ma sono naturalmente roba commerciale, non è roba autocostruita? No, è roba commerciale, roba... gli altoparlanti erano EAV, delle EAV. Ah, ho visto, bella costruzione, infatti molto molto molto bene. Quello che ho fatto io, nel senso, io l'ho riproposto, perché non l'ho progettato io, ma l'ha fatto questo amico che lui è molto bravo su amplificazione, questi amplificatori, eccetera, eccetera. Le ha fatte lui, per quelle monitor che ti sto dicendo io, abbiamo preso tutte le bobine, le ha fatte lavorare quasi larga banda con i woofer, a discapito magari di tenuta in potenza, però in modo che salgano un pochettino più in alto. E infatti i condensatori non ne abbiamo, ma forse sì, qualche condensatore c'è, non abbiamo messo. Ci ha messo solo la bobina per il woofer, per il tweet adesso non mi ricordo cosa ha fatto, ma ha modificato completamente il progetto di originario di quelle casse, perché erano delle RCF con un tweet spaventosamente fastidioso. Adesso ha messo questo ciare a compressione e questo 15 pollici sempre della ciare, ma c'ha un bel basso, magari non arriva profondissimo, però bello secco, ti senti lavora un po' più anche verso i medi, verso i medio bassi, e ti posso dire, magari non è eccellente la qualità, però si ha silvagente indietro. Ma neanche quelli sono woofer, no? Quello è un crossover che non lavora, non scende tanto, quella è una medio bassa, è lo stesso, è una medio bassa e ha un bel taglio dal kilohertz in su per la tromba, però è una medio bassa, mi sembra che quel crossover scende a 80 Hz, 90 Hz, ma proprio la più bassa che ha. Però pesano, quindi era un 15 pollici, va meglio da 15 pollici, perché da un impianto era un 3 vie, in pratica cosa succede? Appendevi le teste, erano degli inside, in pratica si chiamano, autoparlanti che si mettono sul palco per un ritorno generale del suono che va fuori. L'ho fatta proprio semplice e non ci vogliono, perché dipende da cosa ti chiedono. Tu in pratica con quello che ho parlato lì devi fornire la qualità di suono, per esempio vogliono dare una serie di violini, quell'autoparlante deve fornire dettagliatamente il suono del violino. Ci vuole un colpo di cassa, allora devi aggiungere il subwoofer, capito? Devi aggiungere il side fill, si chiama. Però sono autoparlanti, cioè un crossover tagliato molto per la qualità, non per la quantità. È molto crossover, molto diciamo molto dinamico, molto pulito e a frequenze ben tagliate. La parola sulla costruzione molto molto fatta bene. Dunque, quello che c'era della RCF, il suo originale, infatti abbiamo eliminato, era una complicazione unica, c'aveva un sacco di giri contro giri che creava soltanto un po' di distorsioni alla fine, perché ci sono accavallamenti di cose. Invece abbiamo fatto in modo, non io, naturalmente lui, il progettista è lui, abbiamo ridotto anche leggermente il volume, proprio calcolato con i componenti, con tutti i valori di costruttivi, è stato fatto proprio ottimizzando il più possibile. C'è da dire che c'è qualcosa da ottimizzare a livello di filtraggio, infatti me l'ha detto anche lui, questa è una prova che siamo fatti. Io posso correggere, perché ho l'analizzatore di spettro con il generatore di rumore rosa, posso correggere, però preferisco lavorare direttamente sul taglio delle frequenze, sul filtraggio, che è più comodo, se no devi multiamplificarlo, mettere il grosso valore elettronico, come mi sembra che hai fatto tu o chi per te, che mi hai fatto vedere con le foto, così puoi fare quello che vuoi. Sì, io viaggio con i crossover elettronici, punto, crossover, ma ormai vabbè, il crossover elettronico non ce l'abbiamo neanche più, perché ogni finale c'ha il suo preset, e quindi per le teste al preset della casa autocostruttrice degli autoparlanti, perché hai visto quelle bestie che ti ho mandato, quei finali che ti ho mandato di rack, che sono due rack separati, quelli sono i più grandi della PowerSoft, quelli sono 25.000 watt lungo gli amplificatori, vengono 12.700 più IVA l'uno. Quindi a Vito ce ne sono 5, Vito. E in pratica l'Outline ti fornisce il preset da installare su quell'amplificatore per le teste, poi per le video basse, per le basse, per tutto. Ho ragione che ti faccio vedere il capannone, ti faccio vedere un po' cosa fanno quei finali. No, sono micidiale, ma poi adesso con la tecnologia moderna, la resa, per dire, come tu c'hai un alimentatore, per dire, a trasformatore, per avere 50 ampere pesa 30 kg, adesso per avere 50 ampere te lo fanno da 1,5 kg con quegli switch, vabbè, sono cose diverse, però la resa di un amplificatore moderno rispetto di quelli di vecchia generazione, io ho visto, l'altro giorno stavo vendendo, non so se li conosci, che all'epoca costavano anche un pochettino i Crown, non li conosci? Sì, ce li ho avuti. Non ci ho mandato una foto dei Crown, hai visto quanti ne ho di Crown? Per dire, quelli negli anni 80 funzionavano, le trovavo in tanti piccole band, cose così, e per avere, per dire, 1000 watt dovevi avere un amplificatore da 20 kg, adesso 1000 watt con un amplificatore da 3 kg, 4 kg e c'è 1000 watt. Ma sai quanto pesano quei PowerSoft l'uno? Quei PowerSoft l'uno pesano 25 kg l'uno, quindi sono pesanti anche loro, sono a trifase quelli, quelli vanno, siamo a una fase e trifase. Noi li abbiamo cambiati per la trifase perché è più bilanciato, capito? L'alimentazione è più bilanciata. Ma la trifase assorbono 2 kW, 2 kW, 2 kW a pieno regime, 2 kW a pieno regime, ma considera che sono finali che sviluppano più di 7.000 watt a canale. Poi nel blog di quegli amplificatori cosa succede? Che sono 4 canali l'uno, no? In pratica tu puoi mettere in 2 canali, puoi fare 2 canali due canali le medio alte, bugia, puoi fare un canale gli alti, un canale il medio bassi, e in altri due canali puoi mettere i sub LR. Cosa succede? Che tu per le alte frequenze cosa noi usiamo 300 watt, 300-400 watt per le alte frequenze, 1500 per le medio basse, no? Però tu considera che 7000 watt a canale e tutti i watt che non usi nei canali te li somma per le altre due con più potenza. In pratica quelli là, i canali di sub, diciamo, i canali di sub non escono più con 7, ma escono con 10. Mi segui cosa ti voglio dire? Cioè si sommano alla bassa frequenza. E lavorano ottimizzate sulle frequenze specifiche, infatti il vantaggio è quello, perché prima era tutto diverso, c'è una tecnologia completamente diversa, per cui impianti comari anche con meno potenza di prima, però sono ottimizzati, lavora solo l'amplificatore su quella frequenza lì. Io di c'è la gola a pezzi, né? Di grosso per elettronico ne è uno, però è per auto, 4 ohm, e non va bene a metterlo sulle casse automo, che c'è una gargaglia, perché stavo cercando uno, me ne era capitato uno, poi era un po' gonfio, l'ho lasciato perdere, perché adesso li trovo a buon prezzo, perché non si usano quasi più i grosso per elettronici, prima negli impianti, diciamo, PA si utilizzavano, ma mi stai dicendo tu ormai è direttamente l'amplificatore, lavora su quella frequenza lì e buco. Scusa Robert, perché non lo puoi usare quello per auto per fare piazza per casa? Forse non mi sono spiegato bene. Io ho un grosso per elettronico per auto alimentato a 12 volt, però 4 ohm, per altoparlanti a 4 ohm, siccome l'impianto mio è a 8 ohm, ci vorrebbe un grosso per elettronico a 8 ohm. No, dovessi prendere e mettere delle, vabbè che tu non hai gli altoparlanti, tu non hai altoparlanti con, per esempio, doppio con la 12 tromba, doppio con la 15 tromba, perché altrimenti potevi risolvere mettendo in serie degli altoparlanti, in pratica con un canale, portavi gli altoparlanti e aumentavi gli ohm, mi segui? Perché potevi fare, per esempio, 4, allora fai, sarebbe l'autoparlante in doppio 12, poi il doppio meno basso da 12 e tromba, potevi fare serie, parallelo, e così tenevi sempre i 4 ohm, tenevi sempre l'autoparlante a 4 ohm, e il finale lo facevi girare a 4 ohm. Io per esempio i miei sub che usiamo noi per il live, per gli offline, girano a 4 ohm, non pensare che girino a 8 ohm, girano a 4 ohm, e addirittura a volte li facciamo andare quando facciamo discoteca, quando capita che c'è il DJ grosso, per esempio con Gabri Ponte, con ti posso dire con Pippo Palmieri, con quelli di 105, li facciamo girare a 2 ohm, le terze a 4 ohm e loro a 2 ohm, perché hanno più spinta, vai, è vero, più vicino alla rottura e alla distorsione, però a 0 dB stai, a 0 dB, a 0 dB hai lo stesso guadagno, però invece di togliere un basso a 4 ohm, un po' delicato, lo togli a 2 ohm aggressivo e lavori, capite, fai schiuma. Lo puoi portare. Sì, però c'è da dire una cosa, voi lo fate perché non me ne frega niente, perché ce ne hai, e non esiste il discorso della stereofonia da voi, tu metti una colonna a destra, una colonna a sinistra, non vi interessa il discorso della cosa, io c'ho solo, dovrei fare un canale mono, a quel punto metto i due bassi, li metto in parallelo, di mezzo l'impedenza, li divido per due, però non è caso mio perché io ascolto in stereofonia, voi no, non vi interessa perché dici ci metti un crossover su questo lato qua, un altro crossover, ti mi abbasso, c'ho due altoparlanti da 8 ohm sul lato destro e due dal lato sinistro da 8 ohm, divido per due l'impedenza, però c'è da dire che qua puoi mettere anche in crisi l'amplificatore, perché molti amplificatori hanno delle protezioni che non è che scendono, perché tu dici tu lo so far lavorare a 4 ohm, però con tutta la quando sta lavorando con la musica può scendere anche sotto i 4 ohm, scende anche a 2 ohm e va in crisi l'amplificatore, ti crea distorsioni col rischio, se non è protetto bene, che si sciolga. No, i finali grossi qui scendono a 2 ohm tutti, cioè, addirittura il PA in pratica le trombe vanno a 16 ohm, le medio basse vanno a 4 ohm, allora di norma in live noi discoteca ne facciamo ben poco, però è successo che abbiamo portato l'impianto a 2 ohm, però in live trombe a 16, medio basse a 8 e sub a 4, sempre 18-4 è la configurazione. Però dice per musica, discoteca, tipo festival, queste cose qua rimane 16-8-2, sono i sub che gli dai molta per dare spinta, perché per riempire, cosa ne so, per riempire un beer fest a Valeria ci vorrebbero 80 sub, 80 basse frequenze, noi ne abbiamo 12, devi pompare un pochino di più sulle basse, perché sulle alte basta sollevare di 2-3 metri il cluster arrivi, ed è come se hai 10-15 mila watt in più. Però è sempre, allora, sulle medio-alte hai sempre quella, è sempre quell'ome 16-8, ma da lì non si sgarra, da lì non si va, da lì non si esce. Casi rari, siamo scesi con le medio-basse a 4, ma due volte. Una di queste due volte è stato con gli Asterau a Satterralba, ecco, vi sono fatti capire. Siamo, però i sub a volte quando ci serve li facciamo scendere molto. Però hai detto bene, avete amplificato di PA, se io attacco lo Yamaha che ho io lo sciolgo, ma va subito in protezione, perché non è fatto per quelle impedenze così basse, è già troppo se riesce ad arrivare a 4 ohm per lavorare, ti darà molta più potenza, voi lo fate soprattutto per avere più potenza nei bassi, soprattutto quando fai musica da discoteca, gli acuti non ve la futti nulla, però magari se fai un concerto di musica da camera, probabilmente non li fate lavorare a potenze, a impedenze così basse. Sì, almeno mi immagino, mentre la musica discoteca sono tutto bum bum bum bum bum bum bum bum bum, e devi dargli rumore. Allora, noi abbiamo seguito molti cori gospel, ti faccio anche il nome perché è un'amica di Pina Muruni, addirittura sub l'abbiamo fatti salire anche di Homo. Sub a 8 ohm, ma sub in un coro gospel in sub ne portiamo due, uno per lato, e poi è tutto qualità, e nel gospel è tutto microfoni e distanze, microfoni e distanze, configurazioni XY, cardiodi, semicardiodi, dai, una cosa un po' così, io ti ho parlato, ti stavo spiegando più che altro dell'esigenza quando si richiedono molti watt in bassa frequenza e quindi modifichi solo l'impedenza delle basse, ma le medio e le alte rimangono sempre invariate, quelle non si toccano. Sì, infatti dipende da cosa devi fare, hai detto bene, se fai voce, gospel, ci vuole, lavori su frequenze più alte, medio frequenza normalmente, per cui il basso non te ne frega niente, non scendono, che non siano baritoni, non ce ne sono, però raramente li trovi baritoni, però se magari devi fare musica, quasi musica rock, può darsi magari che lo utilizzi di scendere, anzi può darsi, sicuramente lo utilizzi rispetto a una musica dove ci sono dei cori e l'impedenza magari ci serve il basso, se la devi ascoltare di un genere di musica rock dove c'è un bel basso, un bel coso, devi per forza fare quel discorso che hai detto tu, però devi avere degli amplificatori che te lo permettano anche di fare. Dai. Se diciamo, infatti hai detto bene, tutti gli acuti di un certo livello, ho visto anche amplificatori, come si chiama, di impianti domestico, molti amplificati utilizzano anche in ambito domestico, li fanno lavorare a 16 ohm i componenti. Io ho un bel woofer gamma estesa della RCF, un 15 pollici, che caccia un suono e tu dici, ma è possibile che questo altoparlante suoni così bene? Dico, veramente lineare, per essere un altoparlante gamma estesa senza niente, un vecchio RCF ci avrà 40 anni, se non di più, come progetto, eppure lo senti suonare molto efficiente, indistruttibile, perché l'abbiamo caricato, noi avevamo una piccola saletta da ballo, è stato l'unico componente che non si è mai sfasciato, gli altri li abbiamo tutti rotti. Sì, ebbene, perché magari non siete mai arrivati a far scaldare la bobina, non siete mai arrivati a far scaldare la bobina e quindi ha sempre durato. guarda, lui io ti posso dire una cosa, lui l'unico concerto, lui gli unici concerti dove abbiamo tirato proprio ai limiti il PA è stato il concerto di Bennato, perché il fonico di lì vuole volume. Bennato, Piero Pelù e J-Ax alla Maddalena. Di lì l'abbiamo proprio tirato. Usciva la perché nei finali che avevamo nell'abigruppa che avevamo, l'abbiamo ancora. Usciva la scritta alta temperatura moderare emissione di B nelle basse frequenze, nei finali, cioè un 20K, la Bruno 20K, un finale intelligentissimo, usciva tutto nello schermo, usciva la scritta alta temperatura, moderare emissione di B, ma però era, caspita, un bennato, quando faceva le canzoni vecchie, porca miseria quanto pezzava, perché lui usa una che ti ha mandato il video, no? Lui usa una cassa dietro e batte, lui suona tre strumenti e canta, e mi ricordo sempre, ha fatto la canzone Ok Italia, non so se la conosci, a palla, proprio di noi ci sarebbe la scritta nel finale, ma c'erano 25.000 persone. Poi la tua hai cercato Edoardo Bennato, per me è il più grande cantautore italiano in assoluto, non ce n'è a livello suo, completo, come hai detto tu, suona tre strumenti in contemporanea, l'armonica, chitarra e poi se gli dai anche altra cosa te la suona lo stesso, perché è talmente bravo, è un artista completo, dalla musica classica, non so se conosci i pezzi che ha fatto nel coso, come si chiama, Fanna, non mi viene il nome, vabbè, comunque mi ha capito, pure sono solo canzoni. Ora ci sono le canzoni che vanno dal genere come si chiama? Aiutami, il famoso LP di coso, Burattini e Maionette. Buonasera Franco, adesso ti facciamo entrare. Allora ha fatto, allora a me le due canzoni che mi hanno colpito dopo il concerto, vabbè, proprio sono state Rock Coccodrillo, che dava certe sbandinate dei bassi che mi sono spaventato anche io, qua rompiamo tutto, però era un suono pulito, quella Ok Italia, Abidubbi lo stesso, ha fatto un concertone, bello. Buonasera Franco, avanti, in compagnia di Roberto Quadrato di Gavino qua. Ciao Franco, comunque buonasera a tutti e due, ciao Gavino, ciao Roberto, io di casse, di queste cose, come ne intendo niente, sono zero, niente. Sono stato, ho detto, se continuo a parlare di questo vuol dire che li ascolto con piacere. Avanti a te Roberto. Ciao Franco, buonasera, ben sentito. Vabbè, sono argomenti, io sono un grande appassionato, lui lo fa per professione ma da sempre, dall'alta fedeltà al discorso musicale eccetera, però tornando a lui, Bennato, probabilmente senza considerare gli artisti internazionali che ho visto, il miglior concerto che abbia mai visto in vita mia è il concerto allo Stadio Acquedotto, che avrà avuto 16-17 anni, di Edoardo Bennato, una qualità spaventosa, un suono da paura e un artista allucinante, faceva qualunque genere musicale, anche musica, ha fatto un pezzo nell'EP il Burattino senza fili, sono solo canzonette, lì ci sono le canzoni di coso, di tipo opera, una cosa del genere, ma veramente completo, un artista completo, una bellissima voce, un musicista, tutto, altro che questi balordi che ci sono adesso, super commerciali, pubblicizzati, che non sanno fare, ma non sanno neanche prendere mano alla chitarra, veramente un grande Bennato, poco apprezzato adesso dai giovani perché si se tu chiedi, ma la maggior parte non sa anche Marco Garia, ma chi conosce la musica, numero uno secondo me è lui. E poi vengono anche Branduardi, un grande musicista, Pino Daniele, Lucio Dalla, però artista completo, cantautore, musicista, secondo me il numero uno è Corso, è Bennato. Riprendi, Gabriele? Sì, ebbè. Guarda, a me, io ti posso dire una cosa, noi seguiamo anche le ali, Forza Reali, lo stesso è molto, molto, molto bravo. Forza Reali è anche un'ottima persona, vedi, è anche un'ottima persona. Poi sì, è vero. Questi qua io li so tutti, come si suol dire, Pinuccio alzato. Ma vabbè, ma già li passa, perché a volte fanno delle figuracce, delle figuracce che piace anche a loro. E io faccio un attimo di bianco, che devo fare una cosa, rientro 5 minuti e rientro subito. Franco, avanti, no, stavamo parlando perché visto che non c'era nessuno, ne abbiamo approfittato per parlare delle nostre passioni. Avanti Franco, per Roberto, rivedo subito io. Capo, no, avete fatto un break, non ci mancherebbe altro, figurati. Sono che io vi ho detto solo che io ho un argomento che per me è vero, va bene così. Me ne sono accorto, siete due appassionati e va bene così, va bene. Sì, è un argomento, guarda, anche piace anche a me, piace un bel, a me tra il lago Bennato, poi tutti i cantautori che un po' vecchiotti sono belli, un po' tutti, però questi di adesso, vabbè, sono gente scamanata che non vogliono neanche ricevuti all'Ariston. No, non esiste più. Raramente, quando vedo Sanremo, a parte che quest'anno non l'ho visto, forse ho visto una canzone incuriosito, quella che tra l'altro mi pare è arrivata seconda, quello supereroe, una cosa del genere. L'unica che si poteva ascoltare, il Red, è quella che ha vinto naturalmente, di, boh, non mi ricordo neanche come si chiama, ma il Red era osceno, già da almeno 10 anni Sanremo non vuole, non solo l'ho visto, non vuole ascoltato, perché vanno tanti artisti, prima si avessi mezzo nudo, cosa del genere, e fai audience, diventi un artista, puoi dire tre fesserie, però sei un artista. Prima invece, quando c'erano i tempi, posso dire un nome, Massimo Ranieri, no, solo Claudio Baglioni, gente così, quando cantava, perché i tipi dei musicisti veri, adesso è tutta roba che li mettono di lì, fare un po' di rap, tre fesserie, una base musicale, ti bombardano la radio 24/24 e diventi famoso, il pubblicista, il produttore, c'ha dei contatti con le principali radio e la canzone ridicola diventa un successo e guadagna sia il produttore che l'artista. Guarda Robè, che essere artista non vuol dire essere un cantante, perché poi essere un cantante è uno, scusa la parola, ma uno flop. Un artista si vede quando è proprio una persona come si deve, e che sa fare le canzoni, che si fa le canzoni, si fa tutto lui, si fa. Quello è un artista, non uno che paga per farsi le canzoni e poi non sai neanche cantare. Hai detto bene, infatti è solo commerciale, ma ce ne sono tanti, il 90% dei cantanti, cosiddetti pseudo cantanti, sono così. Raramente vedi uno nuovo che dice, cavolo, questo c'ha una bella voce, eccetera. Sono tutta gente così, che non sanno neanche cos'è uno strumento musicale, li mettono la base, dice te canta questa canzone, suonati tutti a conto loro, non seguono molte volte neanche il ritmo, ridicoli. Molte volte vedi quei programmi, tu questo, tu quel vale, cioè cose del genere, vedi degli artisti di strada che li fanno 10-0 a questi che sono super conosciuti. Certo, e poi se tu guardi Sanremo, io quest'anno l'ho guardato, non tutto, l'ho guardato a pizzi, sapevano già dall'inizio chi doveva vincere, cioè quello non è Sanremo, quello non è un coso di canzoni, per me quella è una stronzata che hanno fatto, tanto per guadagnare soldi e basta. No, ma io penso, dopo le brutte figure di quest'anno, le oscenità di quest'anno, le porcaccionate che hanno fatto quest'anno, che la musica cambierà qualcosa, perché non è stato per niente neanche educativo per i giovani, hanno fatto delle cose vergognose, cose buh, che non ci sta niente. Tu devi fare il festival della canzone italiana, devi far presentare, fai per dire un coso, una selezione, quindi i più bravi li fai partecipare, non perché paghi e c'è il produttore che paghi, puoi partecipare a Sanremo, perché funziona così Sanremo. Prima invece si andava per meritocrazia, cioè c'erano quelli bravi, facevano il provino, sì, tu vai bene, tipo le selezioni tipo Grande Fratello, cose così. E invece adesso chiunque che c'ha il produttore importante, mi paga lui, ti butta dentro di lui e partecipi. E poi stranamente vincono, vabbè, quella che ha vinto rispetto alle altre non era brutta, perché c'erano certe oscene, ma è capitato che hanno vinto porcaccionate, oppure sono arrivati tra i primi canzoni assolutamente scadenti, proprio cantanti che non volevano visti, eccetera. Nel complesso questa era la meno peggio, insieme a quella supereroi, secondo me, ma c'erano delle canzoni che io le ascoltate, delle stecche allucinanti e delle cose, a parte l'orchestra che suonava, che erano dei professionisti, per tutto il resto era una vergogna. Vediamo se è rientrato, se no lo prendi tu, Fra. Sì, sono rientrato. Vabbè, se poi dobbiamo parlare del tipo che ha spaccato tutto quanto e quello che ho preso. Allora, se io sarei stato il direttore del, diciamo, di tutta l'attrezzatura che c'era sul palco, io a quello mi sarei indennizzato e gli avrei fatto pagare tutto. Avrei fatto pagare tutto, perché chi non lo sa non l'hanno fatto, ma quello ha fatto dei danni, quello ha fatto danni anche importanti, quello ha fatto danni anche importanti, ha rotto monitor, ha spaccato capi, ha fatto un casino nero quello lì, io quello l'avrei preso, l'avrei legato alla sedia e picchiato con un petto di pomma. Hanno voluto evitare, che erano gli SDC che facevano, che spaccavano le chitarre, mi pare, dimmi Gavi. No, che spaccava, che ha spaccato la chitarra e ci ha pisciato sopra, e coso, e... porca miseria, adesso ce l'ho sulla punta della lingua. Jimi Hendrix. No. Sì, lo volevo dire io. No, le Zeppelin. Forse le Zeppelin. Jimi Hendrix. Ha spaccato la chitarra e ci ha pisciato sopra. Vabbè, ma quella è roba sua, capito? Cioè, roba sua può fare quello che vuole. Io la roba mia la posso fare, la posso anche bruciare. Ma quel ragazzetto lì, e... vabbè, non si più neanche visto in giro, mi sembra che l'abbiano condannato a morte. Riprendi, Fra. Quello era di Cagliari, mi sembra, se non sbaglio. Boh, non so di dove era quel ragazzo, ma quello, se poi l'hanno bruciato vivo quando è finito Sanremo. Vero, beh. Se fate, c'è anche Marco un attimino, vai Marco. No, stavo suggerendo a Roberto Jimi Hendrix, è venuto anche a me, era in ascolto, mi stavo preparando che sto per uscire. E quindi, visto che ci sono, un saluto a tutti. Ciao Gabino, Roberto e Franco. Buon proseguimento di sera, intanto ascolto cose interessanti qua, dai. Poi a me piace più ascoltare che modulare. K, di nuovo, saluto a tutti e buon proseguimento. Vai Roberto, ciao. Ciao Marco, ben risentito. Vai Gabino e poi fa. Ciao Marco, buonasera, grazie di essere entrato, e dai, buona uscita, farà bravo, vai Fra. Eia, ciao Marco, l'ho ascoltato, ben ascoltato, ci sentiamo, buon proseguo e buona serata. Sì, vabbè, io quello gli avrei fatto fare un po' di gavetta. Ma porca miseria. Allora la cosa più vergognosa di quel gesto è che non sei su un palco tuo, non è un tuo concerto che tra parentesi puoi fare quello che vuoi, capito? Come ha fatto Fedez, ha detto le sue cose ed era un suo concerto e ci può anche stare. Ma vedi, sei su un palco che non è solo il tuo, sei in un programma nazionale e se vogliamo anche mondiale, in presenza del Presidente della Repubblica, è stata una cosa vergognosa. E tra l'altro paghiamo il canone per vedere questo imbecille. Io l'ho visto registrato l'immagine, non l'ho visto in diretta, ma tu immaginati quelli che l'hanno visto in diretta dal vivo a questo qua. Me l'avrei sparato dal palco io. Sì, proprio preso, legato alla sedia e frustato, con una pompa e frustato. Proprio detto chiavettone, così, senza togli sulla lingua. Vedi quella di, anche se la canzone non piace, non è il mio genere, però Marco Mengoni non si smentisce mai, è un artista, questo qua quello è un artista del XX secolo, ragazzi, Marco Mengoni. A me la sua musica non piace, però è così, bisogna ammetterlo. Maestra. Capo, dai, sapevamo già che doveva vincere Mengoni, lo sapevamo già, dall'inizio si sapeva. Quest'anno ho fatto una bella figura, una bella figura lì a Sanremo. L'anno scorso ne hanno fatto un'altra più bella, vediamo se prendono provvedimenti. Così è Roberto. Ma guarda, io non sono anni che non lo guardo Sanremo, l'avevo guardato quando c'era una mia amica che era albanese, ce l'abbiamo guardato insieme quando c'era Ermal Metta, che è anche bravo, un bravo cantante, che era albanese, lei aveva interesse a vederlo, eravamo in compagnia e ci siamo guardati la Sanremo, ma è già decaduto secondo me almeno da una quindicina d'anni Sanremo, forse anche di più. Perché è decaduto perché non è più Sanremo che di quando eravamo ragazzi noi, è tutta un'altra cosa, Roberto, è tutto diverso. Adesso è diventato, non lo so neanche definire, come definire questo Sanremo. È diventato a chi fa una cosa più scandalosa, stanno facendo una gara come tipo TikTok, quei cose che fanno su internet, quello che si mette per scommessa sopra la macchina della polizia, quell'altro scemo che si è buttato l'altro giorno, non l'avete visto, dal terzo piano della laguna di Venezia, si è buttato proprio l'altro giorno, non so se l'ha visto, ha preso questa spanciata, si è filmato, fatto filmare dagli amici e si è buttato giù. Ho visto tutto il video, un fuori di testa, eppure è uscito con le sue gambe, io pensavo si fosse ammazzato, proprio punk, spanciato di brutto da tre piani di Palazzo Sturico, si è buttato nella laguna, una cosa mai vista, eppure è uscito, c'era quello con la capatuglia, l'ha preso, l'ha fatto entrare. Io non so la gente dove sta andando a finire. No, la gente di adesso, questa gente di adesso sono tutti pazzi, per una cavolata ce la prendono, si ubriacano nei bar e poi fanno risse a tutto andare, e poi c'hanno sette figli, c'hanno anche il coltello in tasca, quello è il problema più grosso, che c'hanno anche il coltello, e cosa devi fare? Tu prendi, giri spalle e te ne vai quando è così, stai a litigare con questa gente, ma fa Napoli, avanti. Perché bisogna apprendere fra purtroppo anche a volte farà meno di uscire, perché se tu sei con la tua famiglia sei tranquillo e niente, devo stare andando a farti un giro, o magari prende questo qua ubriaco, ti si sbatte in macchina anche dietro, oppure quello ti rovina la vita, perché mai se ne scendono questi ragazzotti di 20 anni, 22 anni, se ne scendono, sono in 4-5 la macchina e ti rovinano, perché ti rovinano. Infatti bisogna anche fare a meno di uscire, secondo me. No, ritornando al discorso di Sanremo, io... a me è piaciuta anche molto Giorgia con Elisa, infatti guardandolo, detta la moglie, questo qua è un passo falso per Mengoni, questo qua, cioè, perché Giorgia ed Elisa hanno fatto un duetto che Mengoni c'è la vita, Mengoni c'è la vita, con loro c'è la vita brutta. Sì, sì, è vero, guardate, io non l'ho seguito, l'ho intravisto, però tutti ne hanno parlato proprio di Giorgia e di Elisa, sono state fenomenali, però stiamo parlando di cantanti, non di chi si, come ti chiama, Fedez o cose del genere. Fedez, ma Fedez è un, vabbè, non lo posso dire cos'è qua, perché è una cosa un po' volgare, però... Io non li reputo neanche quelli, quelli sono artisti, quelli io li chiamo artisti, artisti che sono stati creati in base alle, alle mentalità di oggi, capito? Perché, questo, perché le loro canzoni non hanno niente, niente a che vedere con dei sentimenti, con delle storie di vita e nulla, nulla, nulla, nulla, nulla. Parlano sempre di questa solita frase, perché io ci sono stato, perché tu non sai cosa ho passato, perché la vita per me è stata dura, e magari hanno 22 anni, capito? Quindi io nella mia vita ho fatto, io dalla mia vita scelgo le mie emozioni e c'è 15 anni. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Si sarebbe potuto alzare Pino Ranieri e avrebbe preso a schiaffi a quelli. La verità, io quando sento queste cose qua, dico sempre, se si sarebbe potuto svegliare Pino Ranieri, cosa ti posso dire? Guarda, ma certi artisti come Lucio Dalla non si possono neanche paragonare, non si possono neanche, neanche mettere a confronto con certi schifezze. Sento bene, artisti, questa è gentaglia, gente di macchie di Gardena, come si dice dalle nostre parti, costruiti artigianalmente, perché non sanno manco cos'è uno strumento musicale. La cosa ridicola è che li chiamano anche a fare i giudici in quei programmi tipo X Factor, cose del genere. Questi personaggi nullità, che non hanno nessuna cosa, valore musicale, zero, perché io non sono nessuno, ma se mi metto a studiare qualcosa forse gli posso insegnare qualcosa, almeno le note musicali, anche se ripeto, la musica, l'ascolto è buono, però sono assolutamente negativo per qualunque strumento, non ci riesco perché ci vuole anche talento e non ne ho assolutamente, però questi personaggi qua li mettono come giudici, li mettono a giudicare anche le altre persone, delle giurie dei coso, come si chiama, dei giurie e dei VIP, molte volte a Sanremo ci sono le giurie, come si chiama, adesso mi viene neanche il nome, ma ne avete capito, giurie quelle delle persone, molte volte ci mettono questi personaggi, cioè quando tu parli di, come hai detto tu, Pino Daniele, Mennato, Lucio Dalla, Venditti, che è diciamo un po' più commerciale, Branduardi, De Gregori, De André, cioè stiamo nominando quelli che hanno fatto la storia della musica, oltre che essere compositori sono anche dei musicisti, cioè come fa a paragonare certa gente con questi personaggi qua? E i ragazzi li ascoltano questo, basta che parlano di sconvoglio, si droga qua, mi faccio a pezzi qua, mi faccio quella, mi tiro quella, mi faccio quell'altra, su tutte queste cantilene che sono tutte uguali, una base tu tu tu tu, e questa è musica per loro. Poi se le fai sentire Pino Daniele dice che tu sei antico. Meglio essere antico che essere guasti come antichi di oggi, per essere guasti come questi di oggi, per carità, per carità. Guarda, io ne vedo tanti, io ne vedo tanti, e Gesù mio, ti viene voglia di prendere e sputarli, però lasciamo perdere, che non si possono, che non, perlomeno io non posso parlare neanche di queste cose qui, perché non sono nessuno a giudicare nessuno, ma vabbè, come vedi non riesco neanche alle parole per esprimere la schifezza, perché poi diciamo il messo male, perché a me come questa imbecillina, no? Che il messo male eri tu che ascoltavi Bob Marley, ascoltavi gli Africa Unite, ascoltavi quello, quell'altro, ascoltavi queste canzoni qua, queste reggae, allora quando ti sentivano ascoltavano la musica reggae, ti dicevano e cosa ci fumendi? No, non sto fumando niente, non sto fumando niente, sto solo ascoltando musica come si deve, perché a me la musica, a me la musica reggae piace molto. Poi non so se tu conosca, ma sicuramente li conosci, gli Africa United, conosci Bob Marley, conosci Aziki Marley, conosci questa gente qui. A me è musica che piace, ma piace tanto. I gusti sono gusti. L'altra. Mi sei dimenticato di Grant. Vabbè, non sai perché vanno quella gente lì a fare i giudici, a fare le cose. Vanno, non ci capiscono un cavolo, perché non ci capiscono niente. Però vanno per i soldi, perché gli pagano una barca di soldi. Quello è tutto giro di soldi. Se no quella gente non si sarebbe neanche alzata dal letto o dalla sedia a casa sua per andare lì. Però quelli sono pagate profumatamente e poi se ne fanno anche, ma fa ditti da me, fa me, se ne vadano. Avanti a te. Sì, hai ragione, guarda, io sono disgustato, cioè infatti non le guardo da anni cosa, guarda, è più bello guardare quando guardi l'Eurovision, non so se qualche volta vi capita di guardare, che l'anno scorso hanno vinto quegli altri pellegrini che li stanno pubblicizzando, che magari a qualcuno possono piacere, Maneskin, che secondo me è assolutamente, ne trovi 10.000 volte meglio di band molto ma molto migliori di loro, solo che sono stati pubblicizzati e prodotti da gente che sanno entrare, è come un giocatore di calcio. Cioè, se c'è il procuratore buono ti fa inserire in una squadra importante, ma ci sono giocatori che giocano per la strada in Brasile, scalzi, che li fanno 10-0, così purtroppo sta diventando l'ambiente musicale, lo saprà molto più di noi e Gavino, che lui ci vive in mezzo, infatti è una cosa di... No, sto dicendo, Gavino, ti sei dimenticato, io ascolto tutti i generi musicali, Eddie Grant, Africa Bambaataa, come erano gli altri gruppi, ce n'erano tantissimi, Bob Marley diciamo è il più famoso di tutti, eccetera eccetera, io ascolto tutti i generi musicali e non mi piace, anche se devo dire eccezionale come qualità di musicisti e cose di jazz, però diciamo quello è troppo evoluto per i miei gusti, però io ascolto tutti, soprattutto il rock, non mi piace il rock, quello rock duro, quello metallico eccetera eccetera, quelli non è che sia il mio gusto, però il rock melodico, pop rock eccetera eccetera mi piacciono tutti, i Police sono il gruppo che preferisco, i Dire Straits eccetera eccetera, quelli sono i gruppi che vado, quando ero ragazzo ascoltavo tanto gli American, Samuel Garfunkel eccetera eccetera, però il rock, quelli proprio i Genesis, il rock quello duro non è che mi piace più di tanto, anche se devo dire li apprezzo perché ci sono veramente dei musicisti che hanno fatto la storia della musica. Vediamo a te Gavino come sono i tuoi gusti, visto che tu sei un ambiente musicale più di noi. Io come musicista, anzi parliamo come batterista, per me Phil Collins è 10. Io parlo come batterista e anche come cantante, a me piace molto Phil Collins perché come batterista fa paura. E poi dimenticato da tutti che io lo stesso è un batterista che a me mi fa impazzire, Tullio Episcopo è lo stesso, è immortale, però vabbè, è sempre una questione di moda, capito? Perché tu l'Episcopo andava negli anni 80, 90, premeva e tutti conoscevano tu l'Episcopo perché era il batterista del momento. Però oggi alcuni dicono alcuni tecnici, alcuni fonici, alcuni musicisti dicono che sia ancora il batterista migliore in Italia. Allora, Tullio Episcopo era il batterista di Napoletano, l'abbiamo detto prima, il più famoso cantante napoletano, insomma, Vaffa Napoli. Vabbè, mi avete capito che era più pubblicizzato Tony Esposito perché aveva fatto pezzi solisti eccetera, però Tullio Episcopo è ai massimi livelli mondiali come batterista, come grande batterista poco conosciuto, Ferenzi Di Cioccio della PFR, ce ne sono ben pochi i batteristi che suonano, io l'ho visto dal vivo tutti e due, Pino Daniele, non mi ricordavo il gruppo, cosa, ha fatto dei pezzi da paura, cosa. Studio l'Episcopo, suonava strumenti, oltre che la batteria, anche strumenti di percussione, eccetera, gli avevi un barattolo della pittura lavabile, si metteva a suonare lì, ho visto delle cose, poi basta andare su internet e vedere cose da paura. Quello che hai nominato tu, Phil Collins, è un grandissimo artista completo, perché oltre che essere ai massimi livelli mondiali di coso, di come batterista, mancino, tra l'altro uno dei pochi mancini, diciamo, stile tutto suo, è anche un grande cantante, ha fatto tantissimi pezzi musicali. A me mi piace come tipo di genere musicale il batterista dei Police, Stuart Copeland, è grandissimo, uno dei più forti a livello mondiale, e come ce ne sono altri che magari sono meno conosciuti, quelli dei Toto, il batterista dei Toto, Porcaro, non so se l'hai mai sentito, è uno dei più grandi al mondo, nel senso ha insegnato tanti batteristi, si sono ispirati a lui, poi ce ne sono una decina a livello mondiale, batterista Carl Palmer eccetera, te ne direi tantissimi, però quello che piace più di tutti a me, il batterista più spettacolare che mi piace, non ho mai avuto il piacere di vederlo dal vivo, si va a coppia dei Police, veramente un grandissimo spettacolare, una velocità da paura. E poi di quelli che ho visto io, il batterista più forte visto dal vivo è quello dei Blues Brothers, l'ho visto dal vivo, era spaventoso, io a fianco a lui non dicevo questa è una macchina, ha fatto un'ora e mezza di concerto, una macchinetta, io se avessi fatto 10 minuti quello che ha fatto lui mi avrebbero ricoverato, una velocità, un ritmo da paura. Di nuovo a chi tocca, vai Franco, tu ascolti di generi musicali? Si è allontanato Franco un attimino, Roberto. Allora ti posso fare un nome, il nome di un batterista adesso, che è il direttore musicale di Loredana Bertè e si chiama Ivano Zanutti. Ivano Zanotti è il batterista e direttore musicale della Bertè ed è anche il batterista di Ligabue. Cercalo su internet e vedi chi è questo qua. Fa paura, è a parte fatto da un gigante, però è assurdo Roberto. Allora lo conosco, è a livello mondiale anche lui bravissimo, quello che non so se sia la stessa persona che ha suonato anche per artisti famosi a livello mondiale tipo Michael Jackson, perché noi abbiamo dei batteristi da studio che sono unici nel mondo, cioè ce li chiedono i più grandi musicisti, però stiamo parlando di batteristi da studio che sono degli strumenti musicali, nel senso perfezione assoluta. Io parlo di musicisti, cioè batteristi che suonano dal vivo, è un'altra cosa, perché c'è un po' di, diciamo, di ingegno, di talento, quelli invece sono meccanicamente perfetti, cioè loro non ti sbagliano una battuta, il metronomo è più preciso del metronomo. Quello che ho nominato tu è uno dei famosi batteristi a livello mondiale, ha suonato con artisti super famosi, perché è uno strumento musicale, non è una macchina, di più. Sì, ma anche io quello che ti sto dicendo è che questo qua è il nuovo batterista che secondo me farà molta carriera, ha già fatto carriera ed è grande, è un grande questo qua. Puglia, dati loro che prendono e hanno avuto questa possibilità di intraprendere quel lavoro e sono diventati campioni. Avanti Roberto, io faccio un altro paio di passaggi e poi vado a fare un po' di nanna. E anche io adesso infatti ho detto, sono un po' stanco, anche se con la conversazione mi sono risvegliato, quando sono argomenti così ti caricano, ti danno la carica alle batterie, dai, perché sono argomenti interessanti. No, io ripeto, io sono grandissimo appassionato di musica, tutti i generi ascolto, soprattutto mi piace ascoltarla bene, al contrario della maggioranza, non per vantarmi, delle persone non sanno neanche cos'è l'alta fedeltà, tu li metti in macchina, dici ma tu non hai ascoltato la voce umana, non hai mai ascoltato un violino, un pianoforte, tu lo sai più di me perché tu ci vivi e per cui sai cosa vuol dire uno strumento, riprodurre uno strumento. Io quando sento i ragazzi, tata si sente bene, senti, ma cosa stai dicendo? Ma ne hai mai ascoltato di cose? Io qualche volta lo faccio per sfida, dico vieni a sentire un po' di roba e non ho niente di fantascientifico, una cosa normalissima, e rimangono così a bocca aperta, e lo vedi quando inizi a sentire la chitarra, la voce umana, il respiro delle persone, quella è cosa. E musica. musica, ascoltare la musica, non è dentro la macchina, dentro un altoparlantino con 2000 watt di un subwoofer che ti butta dentro la macchina, e secondo loro quella è musica, lasciamo perdere. Dai. Vediamo se Franco è rientrato, così ci salutiamo tutti insieme. Sì, sono rientrato, è musica. Musica, io ascolto solo le canzoni, poi il batterista o l'altro non mi sta. Sì, la sento, il batterista lo sento, però non è che ci faccio molto caso, mi piace più la musica che canta il cantante. E poi se uno entra e fa solo un rumore, allora meglio che se ne vada a casa. Avanti a te. Sì, no, stavamo concludendo la discussione, dai, anche Gavino va via, anche io lo stesso caso, sono un po' stanco anch'io. Dai, ci saluto a tutti e due, ciao Gavino, ciao Franco, eventuali anche amici, che sicuramente ci sarà qualcuno in ascolto, saluto tutti, io vado a dormire, vi auguro una buona notte a entrambi e buona giornata eventualmente per domani, se lavorativa oppure se divertimento. Ciao ciao, correti da parte mia. Ok, dai, ciao Roberto. Mi fa piacere di fare quattro chiacchiere stasera, anche se poco. Ci sentiamo alle prossimine, buon lavoro per domani, buon tutto, dai, ci sentiamo. Avanti Gavino. Via, ciao Roberto. Ci sentiamo tutto alle prossime. Ci sentiamo tutto alle prossime. Mi scambio quattro, faccio un paio di passaggi con Franco adesso e poi anche io vado a fare un po' di. Vado a coricarmi perché sono anch'io sono a pizzi. Anch'io sono a pizzi. Ciao Robe, buonanotte. E allora Fra, com'è? Ti ho chiamato stasera. Verso le 7 cose, ma deve essere di lontano. No, verso quell'ora sono rientrato, mi sembra, verso quell'ora. Poi sono salito un po', fatto un po' di chiamate anche io, poi erano più delle 7. Poi due cavalieri su mi sono andato. Sì. Via. Oggi sono a pizzi. Ecco, non è finito. Sì, non ho finito tardi, però capita, stamattina è stata devastante. Vabbè, domani non te lo ricordi più. Domani me la sarà nuova. Domani è peggio. Domani è peggio. Figlia di Gavino, domani è peggio. Dai, Giulia, mamma mia. Poi mi ha ammazzato la schiena, capito? Quando c'è problemi di schiena è un casino lavorare. E vabbè, purtroppo bisogna andare, se vuoi vivere. Io lo stesso, quando non ce la facevo più per la schiena, sono andato al medico, mi hanno fatto delle visite, risonanze, ma lo sono aggiornato, l'ASRI. Uno mi ha detto, dice, signor Cosi, dice, lei deve cambiare mestiere, o si deve licenziare da lì, a me licenziare più. Tu vuoi a casa solo mangiare? Io già mi licenzo già. Mi dai 1500 mesi, io mi licenzo, anzi vengo a casa tua, ti taglio, ti faccio, ti lavo i piatti, tutte queste cose. E io mi licenzo. Grazie a Dio, via, se mi arrivi dopo la pensione. Allora non me la fatti più da oggi che non so più sopra quel carrello elevatore, sto bene, oddio. Il dolore della schiena, sì ce l'ho, ma trasparente proprio. Di poco. No vabbè Fra, io mal di schiena mi è venuto, io non è che ce l'ho neanche per il coso, per il lavoro, io mal di schiena ce l'ho, sono caduto 12 anni fa, sono caduto a mare, stavo facendo cappelle, sono caduto a mare negli scogli, ma soprattutto l'osso sacro alla roccia e sono rimasto più di una mezz'ora fermo. Sopra la chiesa di Balai lontano, di Balai. Sono caduto di lì e meno male che sono caduto in un punto dove non sono caduto a mare, se no mettono il muscio pure. No, è dal giorno che io, cioè non dal giorno, da dopo un mese non ne sono più servito. Cappello, se hai avuto colpo così allora è tutta un'altra storia, dalla mia è tutta un'altra storia. A me me l'ha fatto sedile perché ci ho lavorato una quarantina di anni sopra quel sedile, e prima i carrelli elevatori non erano neanche ammortizzati, i sedili, mentre adesso sono tutti ammortizzati, tutta la regola di legge, e invece prima no, io faccio guidermi al disco, faccio burumi, hanno 23 quasi, e purtroppo oggi continua a travagliare, però oggi continua a travagliare. Sì, e beh, continui, perché continui, però io non avevo niente, non è che a me me l'ha fatto gli sforzi al lavoro, a me me l'ha fatto quella caduta, mi ha rovinato, mi segui. Se ne mettono mezz'oretta fermo, seduto, non ce la facevo a muovere le gambe, ci trovi una metà del rotello. Poi piano piano, perché come se vado è mancato anche il respiro, ma sai, sono caduto male. Beh, cioè così è peggio del al disco quello, perché ci potevi anche rimanere su quel fatto lì. Io ho degli amici che sono caduti dal ponteggio, sono caduti e sono tutti guasci. E sono caduti lei, sono cadute in brutte, ma guarda, quella che questa che subito a 2 euro era fea, però sono convinto di una cosa, se cadevo a terra mi vecchio, meglio guarda con la schiena, per chi si cagita a si chivi che ho caduto a capo, vite com'è, i blocchi sono i cubi, vite che sono i blocchi, rocca e blocchi, e ci ho avuto fino alla rocca, e la rocca vi ricordo prima, poi ho preso con la schiena, la ruota e il blocco, e la poi come ti sono riuscito, mi sono riuscito, ha preso molto, con lo so sacco di andare alla rocca. No, è brutto, l'ho visto, sono sceso un giorno lì con mio cognato, sono sceso per vedere, non l'avevo mai visto a dire la verità, no? Mio cognato mi ha detto, sì, io vado lì a pescare molte volte, lì, ma che fatto? Oh, c'è la roccia, se non vai i botti buoni, fare grattagaggio. Allora, è appunta, ma a me non è uscito, appena di sangue, io mi sono tagliato. Io ho preso proprio lo spuntone di striscio, capito? Ma proprio preso e scivolato. No, che oggi si può chiamare, oggi vuole la gru, oggi ci vuole la gru per portarli su, però poi piano piano sono riuscito a alzarmi, a gattonare, mi sono messo in piedi, già stato tutto in chiudere, mi sono andato. È brutto. E vabbè. Ok. Ma dimmi tu un po' come c'è la seta, mi regola una cosa, no? Ok, no, già buono. Sì, non da giorno non ne sono più servito, non ne sono più servito fra. Va bene. Ragazzo, io per stanotte devo chiudere le trasmissioni perché la verità sono stanco e non mi voglio coricare. Devo ancora sistemarmi i cani fuori e quindi ne avrò un'altra mezz'oretta, quindi ora si chiama Rissi, era voi mi gocco fra che mandava la sveglia e chizzo. Domani mattina la sveglia è presto per me. Ok? Ehi, tranquillo, vai tranquillamente, non c'è nessun problema, dai. Ciao Gabi, buonanotte, dai, buon tutto, ce l'ascoltiamo. Ok, saluto anche se c'è l'amico Giulio, ascolto, ce l'ascoltiamo alle prossime. Ciao. Ehi, Afra. Là ci sentiamo tanto domani sera, io credo per le 4:30 da aver finito. 4:30, 5 credo aver finito. Come ho finito magari che arrivo a casa e ti faccio chiamata se ci sei. Ok. Ciao Fra, scusa se sto chiudendo prima, però sono stanco. Vai giù dopo giorno. quindi si chiudono le trasmissioni. Buonasera Franco, a risentirci, alle prossime, buonasera a tutti gli SVL che ci sono all'ascolto. E se c'è l'amico Giulio, saluto anche a lui. Ciao Giulio, buonanotte e ciao Franco. Ciao ciao, non ti preoccupare, fai bene, perché se sono andato a lavorare anche io avrei fatto la stessa cosa, non ti preoccupare. Ciao ciao. Ciao Franco, ciao Gavino, buonanotte. Gavino, guarda WhatsApp dopo. Sì, ciao Giulio, sì sì, adesso lo guardo, grazie per essere entrato a salutarci, grazie, buonanotte, buonanotte, riprendi Franco per i saluti a Giulio. Cappa, ciao Giulio, buonanotte, buon tutto. Grazie a voi, ciao, buonanotte. Aria.